Perfetto Notte, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Prendi questa mano, zingara, dimmi pure che destino avrò. Parla del mio amore, io non ho paura, perché lo so che ormai non mi appartiene. Inizia, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la campagna per le primarie del Partito Democratico. Cominciano quindi le performance dei tre candidati che si sfidano per la segreteria del partito. Questo che sentite, per esempio, questa è la prova canora di Andrea Orlando, ministro della giustizia a Radio Rock. E poi sentiremo nei prossimi giorni come si avvicenderanno in queste performance. Però diciamo ci sono ben altre note oggi, nella puntata di oggi di Effetto Notte, nella giornata quindi di oggi, visto che ogni giorno vi racconto quali sono i fatti principali, parleremo di un nuovo colpo di WikiLeaks, fondato da Julian Assange, che ha parlato, che ha praticamente pubblicato una infinità, ancora migliaia di documenti che sarebbero dell'archivio della CIA e dimostrerebbero come la CIA sia in grado di fare anche di un televisore, per esempio, uno strumento di spionaggio. Insomma, poi ne parleremo, ci collegheremo direttamente con gli Stati Uniti, ci collegheremo con la Gran Bretagna invece per una nuova tappa verso la Brexit, che sembra un po', diciamo, mettere un po' in bastoni tra le ruote al governo della prima ministra Theresa May. E poi parleremo anche di una manifestazione mondiale piuttosto inedita domani per l'8 marzo. Ma prima di tutto, mentre vi ricordo quali sono i vostri canali privilegiati per interagire qui con Effetto Notte, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte e il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666, vi dicevo come sempre prima il riassunto della giornata. WikiLeaks colpisce ancora, ha pubblicato documenti sul cyberspionaggio dell'intelligence americana, sarebbe in grado di controllare i cellulari e le smart TV utilizzandoli come microfoni segreti. Nessun commento per ora dalla CIA. Brexit, la Camera dei Lord approva un emendamento che mira a vincolare il governo di Theresa May a sottoporre a un voto del Parlamento il risultato dei negoziati per l'uscita dall'Unione Europea. La palla passa ora ai comuni. L'inchiesta Consip e la politica. Il Movimento 5 Stelle ritira la mozione di sfiducia al ministro Lotti alla Camera per votarla subito al Senato. E a porta Maria Elena Boschi dice: stiamo dalla parte dei giudici. Roma, il processo a Raffaele Marra, ex capo del personale del Campidoglio, accusato di corruzione per una vicenda avvenuta nel 2013, sarà con rito abbreviato il 25 maggio. Festa internazionale della donna, domani lo sciopero globale delle donne in oltre 40 paesi, astensione dal lavoro fuori e dentro casa, previsti scioperi soprattutto nei trasporti e nella scuola. L'allarme dell'Oxfam: ci vorranno ancora 170 anni per colmare la differenza di reddito tra uomini e donne. Fiat Chrysler, Marchionne annuncia, la Panda lascerà Pomigliano, al suo posto modelli Alfa o Maserati. Per il calcio in campo, l'attesa sfida di Champions tra Napoli e Real Madrid, e intanto bufera sulla Juventus per contatti con le cosche. Partiamo quindi, dicevamo, dal nuovo colpo di WikiLeaks, che ha annunciato su Twitter di aver pubblicato migliaia di documenti che, secondo l'organizzazione fondata da Julian Assange, provengono dalla CIA. Quasi 9.000 documenti segreti della CIA che contengono dettagli su tecniche di hackeraggio usate per le operazioni di spionaggio sono state pubblicate da WikiLeaks in quello che viene annunciato come il primo capitolo di una nuova serie di rivelazioni di documenti segreti. Il sito guidato da Julian Assange sostiene che la CIA abbia perso il controllo del suo archivio digitale col rischio di una diffusione incontrollata di malware e virus che possono finire in mano a stati rivali, mafie e hacker di ogni tipo. Le informazioni sarebbero circolate senza autorizzazione tra ex hacker e contractor del governo americano, uno dei quali avrebbe fornito a WikiLeaks una parte della documentazione. Fra i dettagli svelati, la capacità della CIA di trasformare i più moderni televisori connessi ad internet in videocamere o microfoni di sorveglianza anche a TV spento. Infine, anche una rivelazione di carattere logistico, che riguarda il consolato americano a Francoforte, usato come base per gli hacker della CIA che si occupano di Europa, Medio Oriente e Africa, anche per infiltrazioni su sistemi non connessi ad internet. Difficile dire se il materiale pubblicato sia autentico o effettivamente pericoloso, e la stessa CIA ha replicato in modo secco: non commentiamo l'autenticità e il contenuto dei documenti di WikiLeaks. Enrico Pagliarini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi ci collegheremo naturalmente con gli Stati Uniti per sapere qualcosa di più e anche perché ci sono nuove dichiarazioni del presidente americano Trump. Ora invece in Gran Bretagna con la Brexit la Camera dei Lord ha approvato un emendamento che mira a vincolare il governo di Theresa May a sottoporre a un voto del Parlamento il risultato dei negoziati per il recesso della Gran Bretagna dall'Unione Europea. L'emendamento dovrà passare adesso alla Camera dei Comuni, dove il governo, contrario a concedere un potere di veto alla Camera, punta a rovesciare questo voto della Camera dei Lord per garantire l'approvazione senza modifiche della legge per l'attivazione dell'iter del divorzio con l'Unione Europea. E poi appunto ci collegheremo anche con la Gran Bretagna. E adesso invece, tornando sulle notizie italiane, l'inchiesta Consip e la politica. Si voterà al Senato il 15 marzo, dove i numeri sono più esigui per la maggioranza, la mozione di sfiducia per il ministro Luca Lotti coinvolto nell'inchiesta Consip. Lo stabilisce la conferenza dei capigruppo di Palazzo Madama dopo una giornata di trattative. Il Movimento 5 Stelle ottiene quanto chiesto dopo aver ritirato il testo alla Camera, così Michela Montevecchi. Al momento hanno espresso, diciamo, un parere favorevole nei confronti di questa mozione il gruppo della Lega Nord e la senatrice Loredana De Petris per la sua componente del gruppo misto. Per il capogruppo PD Luigi Zanda la mozione verrà bocciata con i voti della sola maggioranza, ma intanto Pierluigi Bersani, Democratici e Progressisti, spiega che il gruppo fuoriuscito dal PD valuterà come votare il giorno della sfiducia. Intanto sul fronte delle indagini, vertice a Roma tra i PM di Napoli e della Capitale. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Il Sole 24. 4 ore Roma. E nella registrazione di Porta a Porta di questa sera sulla vicenda Consip e la mozione contro Lotti, la sottosegretaria alla presidenza Maria Elena Boschi ha commentato così. Credo che sia la solita gestione un po' da show mediatico del Movimento 5 Stelle. Conosco il ministro Lotti, quindi so che sicuramente risponderà a tono in Parlamento. Non si può essere garantisti quando le indagini riguardano qualcuno del proprio partito e invece presentare mozioni di sfiducia quando ci sono indagini su ministri di altri. Adesso Roma è stato fissato per il 25 maggio prossimo davanti ai giudici della seconda sezione del Tribunale di Roma il processo a Raffaele Marra, ex capo del personale del Campidoglio, e a Sergio Scarpellini, immobiliarista arrestati, vi ricordate, il 16 dicembre scorso nell'ambito di un'inchiesta della Procura di Roma sulla presunta corruzione per funzione in relazione a una vicenda avvenuta nel 2013. E poi un'altra notizia di cronaca giudiziaria, l'ex PM di Palermo Antonio Ingroia è indagato per peculato. L'ex magistrato, ora amministratore della società regionale Sicilia e Servizi, è stato interrogato questa mattina. Secondo l'accusa avrebbe percepito indebitamente una serie di rimborsi per trasferte proprio nella qualità di amministratore della società regionale. Sotto inchiesta inoltre è finita anche l'indennità di risultato che Ingroia si è liquidato. C'è Dario Ricci che subentra. Integra, cara Roberta, così, parlavi di risultato. A gamba tesa. Parlavi di risultato, è cambiato il risultato del San Paolo perché al 24esimo del primo tempo Napoli in vantaggio sul Real Madrid, il gol di Mertens a concludere una triangolazione dei partenopei, la rifinitura di Amsic e poi il diagonale di sinistro di Mertens a battere Navas, Napoli in vantaggio per 1-0, l'impresa è vicina, serve il 2-0 per qualificarsi, però chi ben comincia. Dici, è quasi a metà dell'opera, poi ritorniamo naturalmente con Dario Ricci qui effetto notte. Adesso parliamo di protezione civile, sì, definitivo dell'Aula della Camera alla legge di delega per la riforma della protezione civile. Il testo è stato approvato a Montecitorio con 304 voti a favore, 38 contrari, 107 astenuti, quindi via libera alla riforma della protezione civile. Parliamo di economia adesso, economia italiana che dovrebbe crescere a un ritmo stabile dell'1% fino al 2018. A dirlo è l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, che colloca però le performance nel nostro paese tra quelle meno brillanti. È un focus quello dell'OCSE che prende in considerazione il triennio 2016-2018 con una crescita globale che dovrebbe accelerare un po' ma che rimane troppo lenta, spiegano gli analisti dell'organizzazione con sede a Parigi. Sono diversi infatti i rischi in grado di far deragliare la ripresa, fra cui la sconnessione fra i mercati finanziari e l'economia reale, la svolta nel ciclo dei tassi di interesse e le incertezze sulle politiche economiche e commerciali. L'OCSE prevede comunque un 3% di crescita globale nel 2016. 2016 in accelerazione a 3,3 e 3,6 nei due anni successivi. Trend positivo per gli Stati Uniti, bene la Germania, frenata invece per la Gran Bretagna da 1,8 all'1%, 1% che è invece il ritmo di incremento che l'OCSE vede stabile per l'Italia fino al 2018, un leggero rialzo rispetto a stime precedenti per il nostro paese, che nel 2017 rappresenta però il fanalino di coda tra i maggiori paesi OCSE. La strada Renzi-Gentiloni sulle riforme è quella giusta, commenta intanto il ministro dell'economia tedesco Schäuble. Vincenzo Miglietta, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora invece parliamo di Fiat Chrysler con importanti riflessi sul sito di Pomigliano. La Panda lascerà Pomigliano nel 2019-2020 e nello stabilimento campano di FCA potrebbe tornare l'Alfa Romeo o approdare la Maserati. L'annuncio di Sergio Marchionne arriva dal Salone dell'Auto di Ginevra. In Italia ci rimane soltanto Alfa Maserati e Jeep per quanto si può produrre in Europa. Queste sono vetture che possiamo continuare a produrre in Italia. Cioè la Panda andrà altrove? Ce ne deve andare per di natura, no? Lo stabilimento di Pomigliano è capace di fare vetture più complesse della Panda senza offendere nessuno, no? Marchionne dice che lascerà la guida di FCA a fine 2018 e spiega che nel futuro del gruppo automobilistico italo-americano intravede un possibile avvicinamento di Volkswagen. Dopo la fusione tra Peugeot e Opel, pronostica, la casa automobilistica tedesca tornerà a cercare Fiat Chrysler per fare due chiacchiere sulla partnership. L'annuncio che la Panda lascerà Pomigliano divide gli operai nello stabilimento e i sindacati. Per la Will Campania la scelta è positiva e non tradisce l'accordo sindacale del 2010, spiega il segretario generale Giovanni Sgambati. È molto positivo perché Marchionne ha sicuramente deciso cosa vuol fare a Pomigliano. Fiom e CGL Napoli sono invece perplessi, dicono basta agli annunci e chiedono un incontro urgente. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E ora all'estero con la Francia, Emmanuel Macron raggiunge per la prima volta Marine Le Pen in un sondaggio sulle presidenziali che si svolgeranno fra un mese e mezzo in Francia. Secondo uno studio Elab per BFM TV e L'Express, Macron guadagna un punto e mezzo, arriva al 25,5%, mentre la leader del Front National ne perde uno e scende al 26%. Al ballottaggio Macron vincerebbe con il 60% dei suffragi, sempre naturalmente secondo questi sondaggi. E poi adesso parliamo invece di Giappone, perché a 6 anni dal terremoto dovuto allo tsunami dell'11 marzo 2015 che provocò a Fukushima 18.000 morti, si registrano non pochi problemi sugli sfollati volontari che non riceveranno altri sussidi perché considerati non più a rischio. Sono a rilento anche la ricostruzione. Sul lato della bonifica il livello di radioattività attorno ai reattori è ancora elevato e tra l'altro pare che per smantellare la centrale a demolizione i lavori non finiranno prima del decennio 2041-2051. Anche Gloria Gaynor, regina della disco music degli anni 70, benedice lo sciopero di domani, dell'8 marzo, delle donne in 40 paesi del mondo, organizzato per sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale sul tema delle condizioni di vita e di lavoro delle donne. Per la star di I Will Survive, che state sentendo, icona della dance music degli anni 70, è stasera in concerto per una data unica italiana al Pala Pop di Santa Croce sull'Arno, in provincia di Pisa. Dice: il fatto che il mio live sia praticamente in coincidenza con questo evento è positivo, io faccio di tutto per portare consapevolezza sulla violenza e le discriminazioni contro le donne. A questo sciopero globale partecipa anche l'Italia, poi ne parleremo con una delle organizzatrici, ma sentiamo in sintesi le motivazioni e anche quali potrebbero essere i disagi. È stato ribattezzato l'8, voce del verbo lottare, marzo, lo sciopero di 24 ore proclamato dalle principali sigle sindacali in concomitanza con la festa della donna. Promosso in tutto il mondo dal Movimento Internazionale delle Donne, in Italia da non una di meno, ha l'obiettivo di ribadire il rifiuto della violenza di genere in tutte le sue forme. A rischio soprattutto trasporti e scuola, ma potrebbero fermarsi le donne lavoratrici di tutti i settori. Mezzi pubblici in forse in molte città, a Milano tra le 8.45 e le 15 e dalle 18 a fine servizio. A Roma fasce di garanzia fino alle 8.30 e dalle 17 alle 20. Possibili ritardi e disagi anche per il trasporto ferroviario, ad eccezione delle frecce Trenitalia. Lo sciopero riguarderà anche il trasporto aereo, con fasce orarie garantite dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Disagi possibili anche per scuola, università, enti pubblici di ricerca e alta formazione e ospedali. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poi vi dicevo, ne parleremo con una delle organizzatrici, visto che è davvero un evento piuttosto inedito. Adesso televisione, Montalbano, la fiction più vista negli ultimi 15 anni. Ieri ha raggiunto 11,3 milioni di spettatori con il 44,1% di share. È la performance migliore degli ultimi 15 anni e con il dato di ieri è stata superata la soglia di 1 miliardo di spettatori nei 18 anni in cui è stata trasmessa. Adesso invece vedo che c'è della discussione tra un arbitro e un giocatore del Napoli. Dario Ricci, vedo bene? Sì, siamo al 32esimo del primo tempo. Napoli sempre in vantaggio per 1-0 grazie alla rete di Mertens, che ha concluso al 24esimo con un preciso destro, una triangolazione con Insigne ed Amsic. Napoli che quindi è a un passo dal completare la rimonta, visto che, lo ricordiamo, all'andata al Bernabeu è stato sconfitto per 3-1, ma il Real Madrid ha reagito e come. Al 29esimo, clamoroso il palo colpito da Cristiano Ronaldo, splendido assist di Benzema. Ronaldo si libera e dribbla di fatto sia Koulibaly, il suo marcatore, che Reina, il portiere del Napoli, a porta vuota, seppur da posizione defilata, calcia di destro e colpisce la base del palo. Quindi partita quanto mai aperta, ma 33esimo di gioco, Napoli 1 Real Madrid 0. Ai partenopei in questo momento serve ancora un gol, Roberta, per qualificarsi ai quarti di Champions. E vediamo, nel corso di effetto notte, se succede qualcosa. Dario Ricci rimane qui e intanto i vostri messaggi prima della viabilità. Diamo un'occhiata sia alla pagina Facebook di effetto notte che al 349 238 6666. Scrive questo ascoltatore, dico sempre, mettete anche un nome d'arte, ecco ricomparire il doppio pesismo dei 5 Stelle dopo aver dichiarato, dice, a fronte dell'avviso di garanzia ricevuto dalla Raggi di essere garantisti, promuovono una mozione di sfiducia al carico del ministro Lotti. Grillo e company continuano a spostare un po' più in avanti l'asticella del limite della misura colma, dice questo ascoltatore. Mentre invece Andrea da Bologna dice, schermi che spiano il Grande Fratello di 1984 del genio di George Orwell è realtà. Questo relativamente a quanto annunciato oggi da Wikileaks, e tra poco ne parleremo. Axerta indaga, documenta, accerta. www.axerta.it vi presenta Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E siamo sempre insieme, 60 minuti, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, tutte le sere, fino alle 22. Sentite però il riassunto all'inizio della giornata, poi io di tanto in tanto vi ricordo quali sono i fatti principali. Sempre Roberta Giordano con voi. Tra poco parleremo, ci collegheremo con gli Stati Uniti per questo nuovo clamoroso annuncio di Wikileaks. Infatti questa è la prima notizia più importante. Wikileaks che svela i segreti della CIA, ci spia con i telefoni e TV. Il consolato a Francoforte, consolato americano, sarebbe, secondo Wikileaks, usato dagli hacker come base dell'hackeraggio, e Mosca dice, ecco, voi che accusate noi, voi americani, siete voi i colpevoli di spionaggio. Poi il Movimento 5 Stelle che ritira la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Lotti alla Camera per votare però subito al Senato. Intanto per l'inchiesta Consip c'è un vertice a Roma con i PM di Napoli che indagano appunto sulla centrale acquisti della pubblica amministrazione. OCSE dice che l'Italia cresce dell'1%, ma è la più lenta dei principali paesi. E poi, per quanto riguarda Fiat, la Panda andrà via da Pomigliano, arrivano probabilmente o l'Alfa Romeo o la Maserati. E poi mazzette al primario per farmaco ai pazienti oncologici, ai domiciliari il primario dell'Istituto Tumori Pascale di Napoli, Francesco Izzo, il dirigente lì abbondante, nell'inchiesta sulla fornitura di apparecchiature. Un informatore scientifico avrebbe dato 10.000 euro a Izzo per raddoppiare le prescrizioni e gli ordini di un farmaco antitumorale destinato a pazienti oncologici. E poi domani, 8 marzo, sciopero delle donne in 40 paesi del mondo e anche in Italia, e c'è la partita di Champions League, Napoli-Real Madrid, sempre 1-0 conduce il Napoli. Ora, come vi dicevo, ci colleghiamo con gli Stati Uniti con Marco Valsania, corrispondente del Sole 24 Ore, da laggiù, da oltreoceano. Caro Marco, buonasera, buongiorno a te. Buonasera a voi. Allora, Trump con le sue dichiarazioni e un po' con la messa sotto accusa di alcuni membri della sua amministrazione per rapporti contigui o ambigui con la Russia, fa parlare tutti i giorni di sé. Poi ieri lo scontro con Obama, nel senso anche nei giorni precedenti aveva accusato Obama di essere dietro le proteste nei suoi confronti e anche le fughe di notizie e anche lo spionaggio nei confronti di Donald Trump, con l'FBI che lo aveva smentito e lui che aveva detto parole inaccettabili dal direttore dell'FBI. Poi sempre di ieri il bando bis firmato da Trump contro l'immigrazione di cittadini musulmani da 6 paesi, escluso l'Iraq. Adesso però, Marco, c'è una notizia che sovrasta tutte le altre, che è questo annuncio di WikiLeaks, no, fondata da Julian Assange, irrompe sulla scena dicendo che la CIA, dicendo di aver pubblicato anzi migliaia di documenti riservati appunto della CIA, dicendo fra le varie cose che la CIA sarebbe in grado di spiare praticamente tutti, anche attraverso i cellulari e anche i televisori che servirebbero da microfoni segreti. Non ne avevamo dubbi, in fondo in effetti è il mestiere dei servizi segreti, come ci insegnano credo tutti i migliori film di spionaggio, e diciamo, quindi questa rivelazione alla fine di WikiLeaks forse è quasi banale, vuoi dire? Hanno due caratteristiche: da un lato aprono un nuovo grande capitolo, così un grande dibattito sul problema della privacy nell'era dell'high tech, nell'era della connettività a tutto campo, che chiaramente significa anche maggiori possibilità di furti di identità, maggiori possibilità di spionaggi elettronici, maggiori possibilità di violazione della privacy, e questo sicuramente è un aspetto. Forse non può essere sottovalutato anche un altro aspetto, che da quando i servizi segreti esistono al mondo, alla fine il loro mestiere è proprio quello di fare operazioni di controspionaggio, operazioni di sorveglianza, per cui alla fine le rivelazioni di WikiLeaks a questo livello sollevano anche un altro interrogativo, e cioè la messa in discussione della credibilità a questo punto delle attività dei servizi segreti della CIA, la loro possibilità di operare e quindi svolgere poi missioni, la CIA e gli altri servizi occidentali, di svolgere missioni legate alla sicurezza nazionale. Ecco, quale sia l'equilibrio che poi vada trovato tra protezione dei diritti dei cittadini, protezione della privacy e attività di difesa della democrazia da parte di organismi quali sono appunto i servizi segreti, questo è il grande dibattito. Detto questo, ecco, devo dire, la stessa WikiLeaks, di questi ultimi tempi ha avuto i propri problemi di credibilità, non per dire che questi documenti non siano in suo possesso, ma è stata usata ovviamente da varie non ancora chiare, oscure fonti, in questo caso non si sa quale sia la fonte, loro non l'hanno detto, e quindi diciamo su chi ci sia dietro, come questa partita poi vada a giocare, a essere giocata, credo che sia a sua volta un grande interrogativo da degno di Le Carré. Senti, eviterei però, esatto, di fare la grande dicotomia: da un lato i cattivi dei servizi segreti, dall'altro i buoni di WikiLeaks. Credo che WikiLeaks abbia dimostrato, diciamo così, che non è esattamente necessariamente, diciamo così, agisce non necessariamente per il bene dell'opinione pubblica, ecco. Non è Edward Snowden, ma a mio avviso, diciamo. L'altra gola profonda che però ci ha rimesso, insomma, faceva parte, era un informatico, no, del Pentagono, se non sbaglio. Esatto, e ha usato quantomeno dei criteri, credo, di nelle sue rivelazioni, come poi si può essere ricostruito dai film che sono usciti, dai documentari, dai libri che sono usciti su di lui, credo ha dimostrato comunque delle preoccupazioni non indifferenti, diciamo, etiche e di gestione, diciamo, poi delle informazioni che aveva. Ecco, credo che WikiLeaks negli ultimi anni abbia dimostrato molto poco riguardo per le conseguenze di quello che fa. Marco, tra l'altro, guardavo sulle ultime notizie che arrivano dagli Stati Uniti che è partito l'affondo di Trump e del suo partito contro l'Obamacare, quindi il sistema sanitario, quella parte di sistema sanitario che era riuscito a mettere in piedi Obama, e contro anche l'aborto. Leggevo che dopo settimane di annunci, i repubblicani hanno presentato al Congresso, quindi al Parlamento, la loro proposta per abolire e sostituire la riforma sanitaria di Barack Obama, la più significativa negli ultimi 50 anni nel settore, e hanno anche incluso tagli ai fondi federali a Planned Parenthood, l'organizzazione per la pianificazione familiare che garantisce anche l'aborto. Sì, è partita, diciamo, la controriforma repubblicana della sanità con la presentazione di questo, che ricordate, questo piano. Questo piano sanitario alla Camera. Ecco, ancora non è chiaro se questo piano avrà successo, se verrà approvato, se avranno i repubblicani avranno i voti per approvarlo, perché le polemiche sono già, come ricordavi, esplose, sono intense tra gli stessi repubblicani, oltre che nell'opposizione democratica, che è nettamente contraria. Il piano sostanzialmente fa leva, cancella Obamacare facendo leva su un meccanismo di crediti d'imposta che verrebbero dati sulla base di alcuni criteri di età e di reddito e che dovrebbero consentire agli americani di comprare polizze. Non è chiaro però quanto il piano costi, quali saranno le ripercussioni in termini di assistenza, se diminuiranno i numeri del numero, se è prevista una diminuzione del numero degli assistiti. Ecco, sicuramente un piano ancora molto molto così agli inizi, con moltissimi dubbi e anche con elementi molto controversi, come ricordati, quale quello dell'eliminazione dei fondi a un'associazione come Planned Parenthood che assiste le donne e offre anche assistenza a donne che abortiscono, ma offre molti altri servizi di assistenza sanitaria alle donne, e che viene presa di mira in questa proposta di legge dalle correnti più estreme dei repubblicani. Grazie Marco Valsania dagli Stati Uniti. Ciao Marco. Grazie a voi. E dagli Stati Uniti invece in Gran Bretagna, perché si torna a parlare di Brexit. Perché? Perché la Camera dei Lord, la Camera Alta, ha approvato un emendamento che mira a vincolare il governo di Theresa May, della prima ministra britannica Theresa May, a sottoporre a un voto del Parlamento il risultato dei negoziati per il recesso della Gran Bretagna dall'Unione Europea. In pratica la Camera dei Lord ha inflitto, si può dire, un nuovo scacco alla Premier approvando questo emendamento che dà al Parlamento l'ultima parola sull'accordo finale con Bruxelles. Leonardo Maisano, corrispondente del Sole 24 Ore da Londra, è così? Ciao Leonardo. Sì, è così. Questa, buonasera a voi. Questa è la volontà dei Lord. Adesso bisognerà vedere se la Camera dei Comuni, che è quella che davvero poi ha il potere finale in termini parlamentari, accetterà questo emendamento. Però è un emendamento molto importante, perché riapre una partita e ributta la palla alla Camera dei Comuni, che dovranno a questo punto veramente fare i conti con la loro coscienza, e sono coscienze divise quelle dei comuni, per vedere se in effetti l'ultima parola sulla Brexit la deve avere il governo, come vuole Theresa May, o la deve avere il Parlamento, come vuole in realtà la logica di una democrazia parlamentare. La deve avere appunto il Parlamento, come vuole la logica di una democrazia parlamentare. Questo è il tema che è stato dibattuto questo pomeriggio, questa sera ai Lords. È passato questo emendamento con un centinaio di voti a favore, e questo certamente incrinerà la volontà finora dei comuni di sostenere il governo, soprattutto incrinerà l'opposizione laburista, che fino ad ora si è schierata in modo abbastanza eccentrico di fatto con il governo, però molti promettono di non rispettare la volontà del loro leader Jeremy Corbyn. Quindi si apre una partita che, se fino all'altro ieri sembrava chiusa con una rapida approvazione dell'articolo 50 del Trattato di Lisbona, che sancisce appunto l'avvio del negoziato per il recesso britannico, apre una partita parlamentare che, nonostante sia ancora molto più probabile un no dei comuni, non è più scontato come prima. Grazie Leonardo Maisano, grazie da Londra. Ciao Leonardo. Grazie a voi. E a proposito di partita, c'è sempre qui il nostro Dario Ricci. Io ho visto Zinedine Zidane, allenatore del Real Madrid, che ha sputato ritornando alla panchina. Io lo sai che mi arrabbio sempre, perché è d'obbligo lo sputo quando si gioca a calcio. I calciatori, la telecamera è inquadra per l'erba, sputano. Per l'erba, infatti, poi vedi che diventa più viscida, immagino che scivolino anche per quello e sopra quello. E tra l'altro anche da parte dell'allenatore, solo perché dice una cosa e torna alla panchina, deve lasciare il suo direi sputo da qualche parte. Direi che hai colto il dato essenziale della serata. Certamente. All'atere di questo argomento, diciamo il risultato, visto che è finito il primo tempo, ecco, e magari è interessante anche quello. Tra uno sputo e l'altro, qual è il risultato? Ecco, anch'io, insomma, approfitto della cosa. Napoli, Real Madrid, alla fine del primo tempo 1-0. Decide finora la rete di Dries Mertens al 24esimo, a conclusione di uno splendido triangolo tra Insigne e Hamsik, lo stesso belga che poi di sinistro, entrando in area, ha battuto Navas. Un Real Madrid che poi al 29esimo ha avuto la grande occasione di pareggiare con un clamoroso palo colpito da Cristiano Ronaldo, liberato a sua volta da Benzema. Ronaldo si è smarcato di Koulibaly e dello stesso portiere Reina, poi da posizione defilata di destro ha calciato colpendo clamorosamente il palo a porta vuota. Ma al 30 è arrivato anche il palo del Napoli, ancora con Mertens, bravo ad approfittare di un rimpallo in aria, questa volta la girata in diagonale di destro ad incocciare il palo più lontano della porta difesa da Navas. Poi altre due buone occasioni per Hamsik, sia di destro che di sinistro, ma soprattutto sulla seconda, attentissimo Navas. E insomma, 1-0 per il Napoli. Il Real Madrid, attenzione perché è un po' un serpente a sonagli, che si rigira, dice, sì, un certo può colpire in qualsiasi momento. Ai partenopei a questo punto manca ancora, matematica alla mano, un gol per potersi qualificare, visto il 3-1 dell'andata, ma insomma metà dell'opera è fatta. Ci sentiamo per la prossima metà allora. No, grazie Dario Ricci, adesso ci prendiamo questa pausa. I vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte o al 349-238-6666. Ora io dico messaggio di questo ascoltatore, lo leggo, dice: ma siete deficienti, avevate detto la notizia di sciopero dei mezzi per domani, ho spostato una visita importante e invece una pagliacciata dell'8 marzo. A parte che di pagliacciate dell'8 marzo non se ne sono mai viste, sono sempre cose serie. Si tratta di uno sciopero vero, di uno sciopero mondiale, poi si può essere d'accordo o non d'accordo, non è certamente una pagliacciata e lascerà senza dubbio il segno. Dopodiché dico, aprire le orecchie, perché tra poco ne parleremo, dico questo ascoltatore, e soprattutto per chi non lo regge, solo un bicchiere a pasto, lo dico sempre. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. E se state seguendo Effetto Notte, lo sapete, ormai siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice con voi, Roberta Giordano, che ogni tanto inciampa nelle parole, perché il tempo è poco, le notizie sono moltissime, ne avete sentite tante, avete sentito il riassunto della giornata all'inizio. Abbiamo parlato poi del questo annuncio clamoroso da un lato di Wikileaks e dall'altro, ci diceva il nostro corrispondente degli Stati Uniti, che sono cose che si sanno, cioè ha detto Wikileaks ha pubblicato migliaia di documenti riservati della CIA in cui si dimostra che l'intelligence americana spia anche attraverso gli smartphone e gli smart TV, certe televisioni che ormai sono quasi tutte smart, no? Collegabili con i social, eccetera, eccetera. E poi abbiamo parlato anche di Trump, del nuovo affondo sull'Obamacare, sul sistema sanitario voluto da Obama, e sui fondi per l'aborto. Poi ci siamo collegati con la Gran Bretagna, abbiamo parlato dell'ultima tappa nel percorso della Brexit, cioè di questo ostacolo che hanno posto la Camera dei Lord al percorso della Brexit, dicendo che è il Parlamento che deve avere l'ultima parola. Adesso questa è la Camera Alta, poi vedrà la Camera Bassa e i comuni se voteranno a loro volta questo emendamento o meno. Adesso cambiamo completamente argomento, voi continuate con i vostri interventi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666. E vi ricordo, prima di passare al prossimo tema, ci sono vari messaggi che leggerò tra pochissimo. Quali sono i titoli principali? Wikileaks colpisce ancora, pubblica migliaia di documenti sul cyberspionaggio dell'intelligence americana, sarebbe in grado di controllare la CIA, i cellulari e le smart TV utilizzandoli come microfoni segreti. Nessun commento per ora dalla CIA. Brexit, la Camera dei Lord approva un emendamento che mira a vincolare il governo di Theresa May a sottoporre a un voto del Parlamento il risultato dei negoziati per l'uscita dall'Unione Europea. La palla ora passa ai comuni. L'inchiesta Consip e la politica, il Movimento 5 Stelle ritira la mozione di di sfiducia al ministro Lotti alla Camera per votarla subito al Senato. E a Porta a Porta Maria Elena Boschi dice: stiamo dalla parte dei giudici. Roma, il processo a Raffaele Marra, ex capo del personale del Campidoglio, accusato di corruzione per una vicenda avvenuta nel 2013, sarà con rito abbreviato il 25 maggio. E poi la festa internazionale della donna, di cui parleremo tra pochissimo. Il mio messaggio è un messaggio che va al di là dell'8 marzo, il mio messaggio è un messaggio che parte dalla condizione femminile. Vediamo troppo spesso come le donne sono oggetto di insulti, anche velati. Noi dobbiamo iniziare a valorizzare le donne tutti i giorni dell'anno. La festa dell'8 marzo è sicuramente una ricorrenza importante, non rendiamola una festa, diciamo, da riserva del panda, perché è così che ci sentiamo noi donne, ci si festeggia l'8 marzo e poi si ricomincia. Dobbiamo semplicemente imparare che il mondo è fatto di persone, uomini o donne, e hanno tutti lo stesso valore. E questa è la voce trattante della sindaca di Roma Virginia Raggi a proposito della festa della donna, domani festa internazionale l'8 marzo. Vi do giusto due dati, due rapporti, uno che viene dall'Oxfam, organismo internazionale, organizzazione non governativa, che dice che cresce la disuguaglianza economica salariale di accesso al mercato del lavoro e ai fattori produttivi tra uomini e donne nel mondo. Secondo le stime, con l'attuale trend, questa attuale tendenza, serviranno ancora, pensate, 170 anni per colmare il gap, cioè il divario retributivo a livello globale tra uomini e donne. E poi un altro, invece, su un altro piano, l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice che nel mondo oltre una donna su tre ha subito nel corso della sua vita, una donna su tre, una violenza domestica o sessuale. E poi naturalmente parla dei femminicidi e anche del 30% delle donne è stata vittima di abusi fisici o sessuali da uomini con cui aveva una relazione intima e ha riportato gravi danni alla salute. Insomma, giusto per dare due dati dei moltissimi che, come sempre, alla vigilia dell'8 marzo e l'8 marzo stesso emergono, no, dalle varie istituzioni, dagli organismi, dalle cronache, eccetera. Vedo tra i vostri messaggi, per esempio, Sefora scrive: è una vergogna, e non solo italiana, chiedere un salario adeguato può portare anche a degli esiti più che negativi, per non parlare del quando si sposa vuoi fare figli, cioè delle domande che fanno alle donne quando devono essere assunte, quanti pensa di farne, dice, scandaloso. Cristiano passerà per retorica stantia, dice: ma ciò che le donne valgono per vastità sensibile, senso pratico e presa sulle cose è quasi sempre materia non remunerabile. Simone: sono uomini, secondo me cambieranno molte cose, molti lavori scompariranno sostituiti dalle macchine, la competizione sarà più dura, le donne sono spesso più brave e potranno farcela. Comunque siamo, dicevamo, alla vigilia dell'8 marzo, domani giornata internazionale della donna. Tra le moltissime iniziative in tutta Italia a livello internazionale ce n'è una transnazionale davvero inedita, almeno a memoria mia, a memoria di donna non la ricordo, ed è lo sciopero globale delle donne, avviato in Argentina e in Polonia, è stato poi ripreso da una quarantina di stati, compresa l'Italia. Praticamente le donne domani si asterranno realmente o simbolicamente dal lavoro fuori casa e in casa per 24 ore, e ne vorrei parlare con Elisa Ercoli, che è presidente di Differenza Donna, associazione che gestisce centri antiviolenza, tra le organizzatrici di questa rete non una di meno. Buonasera, dottoressa Ercoli. Buonasera, buonasera a tutte e tutti. Ci dice come è venuta questa idea, perché quella dello sciopero che molti vari stanno criticando, molti appoggiano e molti criticano? Beh, perché il nostro slogan è stato da subito: se le nostre vite non valgono, non produciamo. Perché è dato per scontato tutto il lavoro produttivo e riproduttivo e di cura che le donne dedicano tutto il giorno, appunto, a tutte queste attività, e invece lo sciopero globale sta proprio a significare una valutazione che vogliamo che venga fatta per la prima volta, di quanto invece la nostra produzione, riproduzione e lavoro di cura sia invece un apporto fondamentale all'interno dei nostri territori e dei nostri paesi. In maniera straordinaria questa riprendere strade, la politica è avvenuto in tanti paesi diversi, come diceva lei, in più di 40 paesi, e quindi siamo veramente molto soddisfatte di quello che stiamo facendo. Non solo le organizzazioni che lavorano come noi nel contrasto alla violenza contro le donne e alle discriminazioni di genere, ma tante altre associazioni, ma anche donne singole, gruppi di amiche, hanno voluto unirsi anche come private a questo nostro sciopero. e quindi io penso che domani sarà una giornata epocale che ricorderemo, perché il nostro slogan "se le nostre vite non valgono non produciamo" è veramente un dire adesso basta, vogliamo essere ascoltate e vogliamo mettere in cima le agende sia dell'Unione Europea, sia del nostro paese Italia, sia tutte le altre compagne degli altri paesi nei loro paesi, quali sono le priorità che assolutamente devono essere organizzate e messe appunto nell'agenda politica come priorità. Lei faceva accenno prima al gap salariale, sì. Consideri che per ogni uomo che guadagna 100, una donna ne guadagna 60, a pari tipo di lavoro. La violenza contro le donne è appunto un fenomeno che non ha nessuna diminuzione. È ovvio che sappiamo che è un fenomeno che è ancora tutto da emergere, però vogliamo assolutamente dei percorsi più strutturati per garantire alle donne di uscire da situazioni di violenza. La rappresentanza femminile a tutti i livelli decisionali è qualcosa sul quale ancora dobbiamo lavorare, sia come paese Italia, sia anche in altri paesi europei e del mondo. Non siamo assolutamente soddisfatte, ma anzi critichiamo molto, in maniera molto forte, la rappresentazione delle donne nei media, che è ancora vista esclusivamente come oggetto, e ormai abbiamo molte ricerche che ci mostrano quanto nei media appunto siano rappresentate più come oggetto che come soggetto pensante, e la lista è molto lunga. Anche lavorare sull'educazione delle nostre figlie e dei nostri figli, togliendo stereotipi e pregiudizi che ostacolino quelle che sono i futuri uomini e le future donne, che quindi debbono anche avere, come dire, non solo l'illusione che potranno essere pari, ma anche un percorso molto concreto sul fatto che potranno essere pari. Invece forse, ecco, questo sciopero globale delle donne che vede 40 paesi insieme, unite tutte le donne di questi 40 paesi in questo sciopero, forse sta proprio a significare che siamo state illuse per troppo tempo che questa parità ormai l'abbiamo raggiunta, che abbiamo pari opportunità, che quindi abbiamo pari trattamento. Non è così, le discriminazioni sono fortissime e adesso hanno bisogno di una marcia in più, e questa marcia a questo punto la pretendiamo, perché veramente si arrivi ad un piano sistematico di azioni che operi non in maniera settoriale, quindi parcellizzata, ma che proprio sappia organizzare un sistema che non dimentica nessuna fase della vita e nessun ambito di vita. Chiaro, quindi adesso che siamo proprio in chiusura, Elisa Ercoli, lei dice, al di là delle critiche per i disagi che può creare appunto in Italia e nei vari paesi del mondo questo sciopero, dice però deve essere una cosa di forte impatto, che debba essere ricordata, che deve essere presa sulla società e far capire che quando si sottraggono le donne al lavoro fuori casa e dentro casa, la mancanza si sente e si nota, e quindi rimane il segno per questo e per appunto sottolineare tutte le istanze che lei ha elencato, che non sono neanche tutte, ma il tempo è quello che è. Grazie Elisa Ercoli, allora buona giornata per domani. Grazie, domani alle 17 a Roma al Colosseo. Grazie, grazie, buona giornata dell'8 marzo. Noi ci dobbiamo prendere questa pausa per aggiornare chi viaggia, tra poco. Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. Vi presenta... Effetto notte, le notizie in 60 minuti. E vi ricordo in pochi secondi, abbiamo parlato appena adesso della giornata mondiale dedicata alla donna, domani con uno sciopero globale delle donne in 40 paesi del mondo, per sottolineare con questo evento d'impatto l'importanza del gap ancora che c'è tra uomini e donne, e anche e soprattutto della violenza maschile contro le donne. Poi Wikileaks, che colpisce ancora, sono stati pubblicati documenti sul cyberspionaggio dell'intelligence americana, sarebbe in grado di controllare i cellulari e gli smart TV utilizzandoli come microfoni segreti. Nessun commento per ora dalla CIA. Brexit, la Camera dei Lord approva un emendamento che mira a vincolare il governo di Theresa May a sottoporre a un voto del Parlamento il risultato dei negoziati per uscita dall'Unione Europea. E per l'inchiesta Consip e la politica, il Movimento 5 Stelle ritira la mozione di sfiducia al ministro Lotti alla Camera, per votarla però subito al Senato, e a Porta Maria Elena Boschi dice: stiamo dalla parte dei giudici. E ora spazio europeo. Europa 24 notte. E la nostra Laura Bettini ci parla della crisi del riso europeo, i produttori fanno fronte comune. Bruxelles riconsideri la lista dei paesi a regime EBA per il riso, cioè la lista di quelli meno avanzati che possono esportare a dazio zero il loro riso nell'Unione Europea. È la richiesta che si è elevata a gran voce dagli stati generali del riso che si sono svolti a Milano tra produttori e ministri europei dell'agricoltura. Ora che le importazioni dall'Asia sono passate da 30.000 tonnellate nel 2010 a 370.000 nel 2016, i paesi beneficiari di questo regime non sono più ugualmente indigenti. Paolo Carrà è presidente dell'Ente Nazionale Risi. Questa riunione è la prima, quindi si è costituita questa piattaforma del riso europeo dal quale poi continuare in un discorso futuro. Quindi, però, sono stati affrontati altri temi, che sono innanzitutto quello di invitare la Commissione europea a rivedere le norme per l'applicazione della clausola di salvaguardia. Attualmente è praticamente come scritto inapplicabile. È stato fatto anche un discorso riguardo la reciprocità tra paesi per quanto riguarda i prodotti fitofarmaci, cioè se in Unione Europea è vietato l'utilizzo di un determinato principio attivo, non deve essere permesso l'importazione da paesi che invece in quel principio attivo è ancora utilizzato. È stato poi anche chiesto in questo documento alla Commissione di definire bene quella che è la cosiddetta sensibilità, cioè il riso è considerato coltura sensibile, questo dovrebbe metterlo al riparo dalle concessioni diciamo di esportazione. In realtà questa sensibilità non si riesce a capire come l'Unione Europea la intenda, perché le concessioni si susseguono una dopo l'altra. L'Italia produce il 50% del riso europeo ed è per questo che i produttori contano sull'Ente Nazionale Risi Italiano. Salvador Loring è vicepresidente di UNIADE, l'associazione delle industrie risiere spagnole. È da anni che siamo d'accordo in tante cose per difendere il settore, no? Sicuro non c'è, perché in Europa sono 28 paesi e mediterranei in questo gruppo nel in Terrisi siamo in 7, dunque siamo in una minoranza, ma il fatto è che noi abbiamo una cultura mediterranea del consumo di riso che dobbiamo difendere, perché se non la difendiamo noi, in Europa consumano riso come contorno solamente e per loro va bene se lo importano, no? E anche il riso, come lei anche lo sa, si produce in zone molto speciali, in molti posti non si può seminare un'altra cosa, e dopo fanno anche un regolatore molto buono per l'ambiente, no? Per l'ambiente, per gli uccelli, per tutto questo. Dunque forma parte della nostra economia, della nostra cultura e del nostro ambiente. Europa 24 notte. In collaborazione con Euronet Plus. Ai ai ai, tornando al calcio, Dario Ricci, ho visto un altro gol, ma non è del Napoli. Eh sì, c'è poco da ridere, tanto per parlare di riso. 1-1 del Napoli, il solito Sergio Ramos, il solito calcio d'angolo. E perché dico il solito? Perché il capitano del Real Madrid ha vinto Coppe Campioni e Scudetti con queste incursioni di testa. Il calcio d'angolo dalla destra, bravissimo Sergio Ramos a svettare sui difensori partenopei, a siglare l'1-1 che pareggia la rete, lo ricordiamo, al 24esimo di Dries Mertens. Quindi Napoli-Real Madrid sono attualmente sull'1-1 quando siamo al 52esimo di gioco. Attenzione però, perché il Napoli dovesse fare 3-1 porterebbe la partita ai supplementari, quindi è sfida tutt'altro che finita. Certo, questo gol del Real Madrid non ci voleva proprio, Roberto. Quanto manca? Siamo al 52esimo, quindi dobbiamo arrivare al 90 di minuti, sì, poi ancora c'è pure il recupero, insomma, ancora un po' di tempo, un po' di sì, tempo sì, c'è sì, ma aggiorniamo alle 23 però alle 20, diciamo certo, tutto. Certo, poi lo ritroverete Dario Ricci, mentre adesso ci dobbiamo salutare e io vi aggiorno poi brevemente alle 22.